Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera, benvenuti a Smart City. Questa sera andiamo all'Università di Pisa, dove un lavoro durato anni ha permesso di mettere a punto quello che si può considerare un nuovo componente edilizio di grande fascino dal punto di vista architettonico e del design urbano, se non altro perché trasparente. Parliamo infatti della possibilità di realizzare travi in vetro in grado di sostituire l'acciaio nelle costruzioni. Ne parliamo con Maurizio Froli, professore di ingegneria strutturale all'Università di Pisa e sostanzialmente inventore di questa tecnologia, che ha portato fin qui a un brevetto registrato appunto per conto dell'Università di Pisa e anche alla nascita di uno spin-off universitario. Buonasera Froli. Buonasera. Allora, senta, prima domanda, così ci aiuta un po' a capire, ma non andavano bene le travi d'acciaio, non ci potevamo tenere quelle? Perché delle travi complicate in vetro? Certo, le travi in acciaio vanno senz'altro bene ancora adesso, come anche le travi in altri materiali tradizionali. Però le travi vitre tensegriti che io ho inventato e brevettato per l'Università di Pisa vogliono essere la risposta ingegneristica alla richiesta di una ideale smaterializzazione degli edifici proveniente in misura sempre crescente dall'architettura contemporanea. Quindi insomma sono gli architetti che vi chiedono questi nuovi materiali, in particolare per dei contesti specifici. A me viene in mente insomma che l'Italia per esempio è piena di centri storici. Certamente l'impiego di travi trasparenti ha dei vantaggi indubbi nel caso in cui si voglia per esempio preservare un sito archeologico dagli agenti atmosferici, ma nel contempo lo si voglia rendere fruibile ai visitatori. Ecco, senta, perché è così difficile fare una trave in vetro? Ma perché il vetro è un materiale, come sappiamo tutti del resto dalle esperienze quotidiane, che ha un'elevata fragilità. Quindi da una parte ha una elevatissima resistenza a compressione, essendo in pratica una specie di roccia liquida o sovraraffreddata, e dall'altra ha una resistenza a trazione abbastanza debole, ma soprattutto molto dispersa da un punto di vista statistico e quindi difficilmente prevedibile, quindi problematico da un punto di vista del suo impiego strutturale. Ecco, quindi fragilità, poca resistenza alla trazione, che è una cosa a cui sono senz'altro sottoposte le travi, no? Certo. E come voi avete quindi risolto questi problemi? Dunque, le travi tradizionali di vetro sono realizzate dall'accoppiamento in parallelo o a sandwich di numerose lastre di vetro attraverso adesivi di tipo plastico, polimerico, come il PVB. I miei colleghi sono sempre andati nella direzione della monoliticità di queste travi, cercando di ottenere la gerarchia di resistenza necessaria mediante questo accoppiamento a sandwich. Io sono andato nella direzione diametralmente opposta, cioè ho suddiviso artificialmente la mia trave in tanti pannelli triangolari equilateri, pilotando quindi in pratica la fessurazione che in ogni caso si verifica in una trave di vetro quando è sottoposta a elevati carichi, verso una geometria a me confacente, insomma a me favorevole, che è quella proprio della pannellizzazione in triangoli equilateri. Ecco, in pratica quindi avete scomposto, diciamo, la trave in tanti triangoli di vetro che sono tenuti insieme da una struttura fatta di sostanzialmente di cavi, è una specie di tensiostruttura con dei pannelli di vetro innestati al loro interno, giusto? Esattamente così. I pannelli di vetro sono tenuti assieme, si parla di integrità strutturale attraverso la trazione esercitata da un sistema di cavi in acciaio, ma potrebbero essere anche altri materiali, che precomprimono i pannelli di vetro tra di loro, realizzando una apparente resistenza a trazione. Ecco, per capire in termini semplici il funzionamento fisico di questo sistema, basta pensare a quei pupazzetti di legno che tutti noi conosciamo e che acquistano, diciamo, la loro integrità strutturale, la loro rigidità, la prestazione di elastici. Quando gli elastici sono tesi, il pupazzetto sta eretto, e quando gli elastici vengono allentati, il pupazzetto si accascia e perde consistenza. Sostanzialmente il principio fisico delle mie travi di vetro è esattamente questo. Con questo sistema di precomprimere pannelli di vetro diciamo separati tra di loro, in pratica io ho evitato che il vetro entrasse in trazione sotto l'azione di carichi esterni. In pratica il vetro lavora con il mio sistema soltanto in compressione e abbiamo detto che il vetro resiste molto molto bene, infatti, alla compressione. Ecco, voi attualmente avete sviluppato una trave lunga 12 metri. Quali saranno i prossimi step? I prossimi passi dello sviluppo tecnologico mirano da una parte al raggiungimento di luci ancora più grandi di 12 metri. Stiamo studiando per ora da un punto di vista teorico la possibilità di raggiungere 30 metri di luce libera con questo sistema. Dall'altra, quello di sviluppare sistemi costruttivi che vanno al di là del concetto di trave. Grazie Maurizio Froli, in bocca al lupo. Grazie a voi, a risentirci. Ci fermiamo qui, appuntamento a lunedì.